sono le 18.47 di giovedì 1 febbraio 2024. Fa un po' impressione questa data come inizio della quinta serie di Pendodeliri, che questa volta approda su Telegram. Non è più un podcast, ma insomma, intanto fa impressione perché la prima serie era del 2004, cioè 20 anni fa. E poi fa impressione anche perché sì, non può essere un podcast. I podcast ormai mi costringerebbero a usare delle sigle, dei bumper, degli equalizzatori, addirittura dei compressori vocali per avere la voce broadcast. Peggio ancora, no? Dovrei ogni tanto metterci delle frasi del tipo: ciao, sono Antonio Pavolini e state ascoltando il podcast Pendodeliri. Che quando io lo sento questo tipo di introduzioni nei podcast che ci sono adesso, tipo abbiamo perso rispetto alla radio, rispetto al consumo dell'attenzione delle persone, alla rinuncia delle persone a fare un qualsiasi investimento emotivo in tutto ciò che è inutile e che è bello, perché deve essere inutile, perché può essere lungo, può essere incomprensibile, può essere libero da tutte le regole della comunicazione, le sacre regole che io per carità condivido, ma se rimane solo quello e ci appiattiamo sempre solo sulle regole, le sacre regole, non ci sarà mai nulla di profano, e la diversità sta nel profano, perché tutto il resto tende invece all'omologazione. E Pendodeliri continuerà a essere questo. Se vuole essere diverso, non deve essere vendibile, non deve raggiungere un grande pubblico, non deve avere successo, ma non perché avere successo in sé sia il male, non lo deve quantomeno inseguire. La prima serie aveva 68.000 abbonati, a un certo punto era in testa alle classifiche del podcasting, ma italiano naturalmente, ma questo perché? Perché non ce n'erano altri, non certo perché fosse un prodotto eccelso. E adesso i prodotti sono straordinari, insomma, si ascoltano nei podcast che sono realizzati con grandissimo talento, eccetera, ma quello che un po' io avverto è una mancanza di libertà espressiva, e temo che sia questa quella che si può colmare anche in dei lunghi e noiosi vocali come questo. Se nessuno lo vuole sentire, è quasi confortante, devo dirlo, anche se suona un po' boomer. E forse come primo commento d'esordio possiamo riflettere sulla conferenza stampa di ieri dell'eroe del momento, questo straordinario ragazzo, questo straordinario sportivo che è Jannik Sinner, che viene trascinato naturalmente da tutti i poteri federali e mediatici sulla terrazza del Foro Italico, luogo da sempre di celebrazione del potere, per, diciamo, far ricadere un po' di ambrosia, di briciole, di gloria anche sui parassiti che da sempre ruotano intorno a tutto questo, parassiti anche mediatici. C'erano tutti questi giornalisti che fin dall'inizio hanno capito che lo scopo era far dire a Sinner quello che volevano loro. E infatti c'erano queste domande, no? Si sa che Jannik è abbastanza un ragazzo serio, schivo, tutt'altro che amante del culto dell'apparire, e quindi le domande erano tutte su: a te non piacciono i social, vero? Oppure quali sono i pericoli dei social, no? Cioè, c'era, diciamo, l'ennesima puntata del filone deprecatorio a oltranza di tutto ciò che è diverso dalla comunicazione controllata dai media industriali, e senza tra l'altro ricordarci che sono media industriali anche queste piattaforme devastanti, dove sì, è vero, tantissime persone, non solo tantissimi giovani, perdono pezzi di vita. E Sinner ha risposto in modo anche molto intelligente, ha detto: no, non mi piacciono i social, perché non è lì la verità, no? Ha detto anche una frase di una semplicità, di una brevità fulminante, ha detto: perché se uno per esempio vuole piangere, non deve per forza far vedere che va tutto bene, no? Cioè, ed è naturalmente vero, solo che è facilmente strumentalizzabile ed è quello che poi puntualmente nei resoconti di questa conferenza stampa di oggi leggiamo sui media. Cioè, il sottotesto è che purtroppo i ragazzi passano le ore su questi schermetti e non leggono più i giornali, non leggono più i libri, no? Poi se andassero a leggere le statistiche dell'età media di chi oggi legge i libri, forse si riscoprirebbero in tutta la loro miseria umana e professionale. Mi dispiace partire con una nota così amara, però penso che questa volta dobbiamo partire così. Le gambe, prendo il metro andando seduta. E come?